Dunque, l'idea è nata da un confronto che ho avuto con la Camera Penale di Bologna per mettere a valore una loro pubblicazione, che è questo codice ristretto, che è un documento che semplifica moltissimo la comprensione di normative e codici molto complessi. Quello che io ho proposto era quello di farsi carico di organizzare un'azione insieme anche ai consiglieri regionali, alla Commissione Parità e Diritti delle Persone e alla Giunta regionale, di consegnare una copia di questo vademecum a ciascun detenuto recluso in Emilia Romagna. Questo in parte è per supportare un invito ai detenuti a credere ancora ai benefici, quindi a farne istanza, comprendere la loro situazione anche da soli, che poi valorizzarle insieme al proprio avvocato e quindi presentare le istanze, e ricordare anche l'istituzione penitenziaria e la giustizia, che esistono dei benefici e che questi vanno applicati quando la posizione giuridica del recluso lo consente. Il primo problema è la conoscenza dei benefici, no? Però poi il vero ostacolo è accedere a questi benefici. Sì, diciamo, esistono ostacoli che, diciamo, oggettivi, che riguardano la popolazione straniera che non ha rete di sostegno all'esterno. In questo le politiche della regione supportano molto il terzo settore e il volontariato a vicariare questa mancanza, quindi anche con case d'accoglienza, progetti di accompagnamento all'esterno. Non è probabilmente esaustivo rispetto a tutti i bisogni, però è un processo che è in crescendo, quindi c'è fiducia che si possa un giorno arrivare a colmare questo deficit.